Mi vanno a raccontare te, già racconto. Ciao Pino, buongiorno. E chi è questo? C'è l'altopiano di Carbonazzi. Allora, nell'altopiano della montagna qua, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, cari amici. Poi sono rimasti che perché ieri ce l'abbiamo presa di vacanza, quindi mi è toccato tutto oggi. Vabbè, sono andato a quei signori che vanno a pesca, perché il motoscafo oggi era sotto il carrello. Via Guntentubura, siccome, perché oggi stanno chiusi sotto il cazzeppo e stavano tutti arrostendo. Il tempo non è bello, e quindi è così. Ciao, perché. Dai, che vado a mandigare. Già sono qua in ascolto, ci sentiamo dopo se coincide, dai. E io c'è anche qua. E io quasi quasi da 1-3-1 anche. E io come mica verso le arricchise e si può. Questo gatto è preparato là. Ah, è pronto, ma io si fritta là. Questa che è una briglia, Lugherzo, già me la raggio io. E io, e io. Oh, perché? Ma avevi detto l'altra volta, poi abbiamo lasciato il discorso a metà. Ti avevo dato una cosa a provare. Dopo che penso. Ti avevano dato una cosa a provare, mi hai detto. Così è, che dovevi farmi vedere. A provare, fammi un augurio adesso. Fammi un augurio. Non ci sono, eh. Illuminami, illuminami. Te dicevo, tu me l'hai detto. Ma hai detto, te devo far provare una cosa che mi hanno dato. Boh, non dico in testa, cos'è? Boh? Cara, quelle palline. Capito, me. E tanto già ne ha poche, ragazzi. Boh. No. Ah, è vero che gli hai dato a quello là, dai. Andrà bene, vabbè, quando ti ricordi me lo dici, dai, io vado a pappare. Cioè, mi state ascoltando bene col barracchino, sì. Alla grande, Gerra. Buona carica, raga, siamo tutti accesi qua. No, niente, sì, uno me ne è rimasto, Gerra, quello che ho ciucciato di là. E quello che ha fatto il bagno a Massimiliano. Cazzo, te l'avevo detto, non tirarla, non tirarla, che c'è buca. Cazzo, vinta me l'ha già fatta, cazzo. Per carità, come si dica. Va bene, infatti siamo divertiti, dai, già va bene. Pinucci, un abbraccio, ci sentiamo dopo, dai, se coincide. Io, ma ora c'hai un sottosfondo tipo scarico di bagno, mi sta facendo... O stai modulando dal bagno, no? No, forse c'è... No, Zecco si è attaccato. Non so, qualche ventolo c'è invece, beh. Dai, non fermo io, dai, la ventola mia qua, fa si sente molto la ventola. Adesso si sentirà ancora di più, perché se sa questi cazzo di alimentatori suici che mi più non c'è, ha già compreso. Era che pago da burotto. Diga, farò, c'è nomi, imboccato la 131, bivio via Lomberto, oltre cazzo, via, entrata di via Le Porto Torre, no? 131 direzione. La cavalcata con Falchetto. Ma se te l'hanno a Falchetto, perché stai passando via Porto, se non hai fatto l'ingresso via l'Italia? No, sto passando nella 131 in fase di rientro, Claudie. Mica io qua c'ho qualche una quindicina di figli, già lo so il posto. Ah, già è vero, già è vero. Va bene, dai, ci sentiamo dopo, riprendila, fa che? A dopo, K. E già fa, dai, buona carica, a dopo, dai. Oh, già dato la nera. Riprendila la luce. Ma di sera ha fatto bravo, Asa. Cada pentesi in radio. Ho fisi un ovago incomprensibile, viso un ovago, un nasino. Ciao, quanto sono bravo. Ciao, quanto sono bravo. Sono uno che vive a tenere sacchero. Insomma, tutto io devo fare. No, però guardate, ma è il bello, raghi. Raghi, non disturba a nessuno. Cazzo, quando ti ha bovato questo foste scopolo. Cazzo, che l'hanno dato chi pizzeco. Cazzo, prova come che è molto dai sul riso. Cazzo, sta pagando la tua. siediti qui, guarda, stai fermo, cazzo, e poi tutta l'ontratta non era più cieco, cazzo. Che perché poi nonno Nino gli ha detto, Nacchi, portagli un bascottone, Nacchi, che così cammina meglio. Guarda, già tu che andate smontato su, si scopolo e già qui l'ha andato, cazzo. Ehi, cazzo, oh, che sta sul fianco, mi vedo lì, andai giù di su. Ma c'era il valchetto, cazzo. Va bene, l'importante, siamo stati bene, è pinuta. Già ne organizziamo un'altra a settembre, vedrai che ci divertiamo ancora di più. Vado a mangiare, a dopo. Scusa, interrogativo, che giorno è settembre? Così facciamo due feste a uno. E vediamo, ci organizziamo, beh, ne parliamo tutti assieme di nuovo, ci organizziamo a tu. E se possiate, sì, vabbè, dai, ne parliamo in privato, Dai, dai, veloce, aiuto se per te ne fai cose, no? Mi imbucchende come entri qui su via Lotto che sei in trende. Aiù, la risessuta, ma che c'è qua, dai, adesso è vabbè, lasciami che entrare in tre sassari. A volte non c'è perché chi vi ciocca si stralone. Fammi con il volgo e tu mi dai le robe mutanda, io. Mamma mia, come sto. Oh, vabbè, tu c'è il vizio e il dentato puro, ui, ui. Ma la gatta sotto dura, E hai andato, guarda, Nacchi, il tempo della guerra, Nacchi, questa sia. E invece, criança spicciocca, da me. Nacchi, oggi te che fai che si innoca, Nacchi, devo pure da succio, Nacchi. Allora, il tempo della guerra, mi. A me ti è inviato che vi cosi Mussolini, mi, che si sembra di essa spicciocca, da me, però questa sia, hai compreso che dai essa caramella, Nacchi, mica no che dai caramella, mi, no. Ma devo pure da succio, Nacchi. Allora, mi è entrato come in Viale Italia adesso, Quindi devo voleare la prima a destra dove c'è quel forno di pane, tu. Bravo, bravo. La paghi c'è la casa su Rotacero Blu. È questa mia, beh, è una ghia nuova. Sono blu, sono morto, giocato in morto, una cosa che è. La scelta è quella, sono valente da toppare due, Vabbè, lasciami entrare, arri, come in cui di fronte noi pesco su Furrevane che va che da angolo, io che devo leare dritto, no? Sì, ma sono carabinesimi, però gira già in due, ci ho messo un grattacielo blu, gira subito a Brescia. E invece una ghiera nuova, cazzo, già la vite, se, e uno piazzale, va. E la gente qui sono valente. Tanto, ma non entra so scatto sopra lo Silvardiani, in nove, no? No, trova già dentro, gira già a sinistra e trova già in Samigala, il suo gruppo. Fa che Samigala e la vuoi entra già direttamente a Brescia, in Saghia, mette una ghia nuova, battami, da sidere. Ah, ecco, questo cartagello blu è sta a fianco alle giovane, ecco. Ah, ecco, questa grecia arancione, via. Parrucchia di San Giovanni del Bosco. Ho sentito, due entra già intro. Tira dritto, entra e sai, mica mi stiamo piazzare. E se qui mi seguo sono te negro, la voglia ti andiamo sul padre, dai. No, è scostosita. Brava, accetta di due, accetta di due. Positiva. Ah, io sono valente, due succubi. Ciao, eventuale scontruri. Due sci che non è cambiato in nebo.